Bentornati ai podcast di Rivista Militare. Quest'oggi, per il numero 04 del 2021, andiamo a vedere un articolo scritto da Anna Maria Sarto dal titolo «Per essere un soldato». Per essere un soldato, la resilienza, di Anna Maria Sarto. Nella costante emergenza legata alla pandemia da coronavirus, gli individui reagiscono nei modi più disparati lungo un continuum che va da reazioni poco adeguate, paranoie, ossessioni, immobilismi, eccetera, a quelle che caratterizzano un positivo adattamento, ovvero l'adozione di atteggiamenti costruttivi e utili non solo nei propri confronti, ma anche a beneficio delle persone circostanti. L'emergenza da un lato e la resilienza dall'altro, che tanto ci interrogano oggi, sono di fatto strettamente connesse alla vita lavorativa del militare. Egli infatti, per sua natura, si trova a operare in condizioni di emergenza, caratterizzate da uno stato di instabilità e vulnerabilità, nelle quali di volta in volta deve adottare una risposta che possa essere la più adeguata possibile non solo per sé, ma anche per il gruppo di cui fa parte e per il contesto. Cos'è dunque la resilienza? Rientra fra le qualità che l'esercito cerca nella persona che recluta? Questa parola origina, secondo alcuni autori, dal latino resalio e rimanda al concetto di saltare o rimbalzare. Secondo alcuni studiosi, avrebbe un'attinenza anche con il verbo insilio, che indica l'atto di saltare su, termine prevalentemente usato per riferirsi all'atto dei naufraghi di risalire sulle imbarcazioni rovesciate. In ambito psicologico è utilizzato per indicare la capacità di un individuo di superare le circostanze avverse della vita, gli eventi improvvisi che potrebbero condurlo a conseguenze sfavorevoli, adattandosi alla situazione occorsa fino a rafforzarsi. La resilienza spiega come alcuni soggetti, grazie alle proprie particolari qualità mentali, di comportamento e di adattamento, una volta esposti a elevati fattori di rischio, non sviluppino, nel tempo, comportamenti patologici in ragione di quelle personali capacità che permettono loro, appunto, di maturare nuove ed efficaci competenze e strategie di adattamento. Coloro che hanno studiato la capacità degli individui di reagire agli eventi stressanti della vita descrivono la resilienza come un processo che si svolge in due tempi. All'inizio l'uomo cerca di parare il colpo difendendosi o lottando contro la fonte di stress. Successivamente, in una prospettiva a lungo termine, accetta i fatti, che possono essere reversibili o anche irreversibili, come un lutto, un divorzio, un fallimento. Attribuisce loro un senso e li integra nella propria storia personale. È questa seconda tappa, ricostruttiva, quella che viene generalmente definita resilienza. Essa è il contrario di blindarsi o del negare l'impatto subito. Chi fa prova di resilienza non si difende negando l'evidenza, ma ritrova l'equilibrio dopo aver vacillato, laddove gli altri sarebbero affondati. Un nucleo di resilienza è presente in ciascun individuo, sia pur in maniera variabile da individuo a individuo. Essa infatti è una capacità intrinseca nella natura umana, ma che non sempre viene attivata, e anche quando si attiva non sempre porta a risultati positivi. In condizioni traumatiche e di forte stress, alcuni individui riescono ad uscirne senza riportare effetti negativi a lungo termine. Altri soccombono sotto la pressione esercitata dell'evento traumatico, arrivando in alcuni casi a sviluppare vere e proprie psicopatologie. Infatti, in tema di resilienza, sebbene influiscano svariati fattori, fra cui quelli relazionali, la qualità delle relazioni instaurate, il sostegno pratico ed emotivo fornito dalla famiglia e dagli amici, e sociali, individui ben integrati nel proprio contesto possiedono una maggior probabilità di superare gli eventi avversi con successo, Ciò che determina nell'individuo una maggiore o minore resilienza sono proprio i fattori individuali, e cioè le specifiche caratteristiche possedute dall'individuo, che possono tornare utili per superare con successo un evento traumatico o stressante. Più nel dettaglio, una persona resiliente presenta in genere tra le varie caratteristiche: ottimismo, autostima, autoefficacia, capacità di risolvere i problemi, senso dell'umorismo, capacità di comunicazione, strategie di adattamento, locus of control interno. Nella persona tutte queste capacità si combinano in un mix che contraddistingue, dinanzi agli stessi eventi, la specifica diversa modalità di reazione in ogni singolo individuo. Possiamo dunque affermare che la persona mette in atto strategie diverse a seconda del proprio specifico tipo di attitudine. Se pensiamo all'esercito, ci rendiamo subito conto che fa parte delle organizzazioni che intervengono rapidamente durante le situazioni di emergenza come il combattimento, ma anche per le calamità naturali e il contrasto alla criminalità in supporto alle forze di polizia. Interviene nelle situazioni in cui la velocità fa la differenza tra la vita e la morte per molte persone. La sua specifica organizzazione gli permette di operare in armi nei contesti più diversi, da quelli operativi a quelli del soccorso. A ciò si aggiunge che la sua attività si svolge anche nei teatri operativi, ovvero lontano dal proprio ambiente naturale, dai propri affetti e dalle proprie abitudini. Queste tipologie di impiego comportano dunque la necessità, per la forza armata, di reclutare persone che abbiano delle inclinazioni innate di comportamento, capacità difficili da insegnare, ovvero alcune peculiari attitudini che vengono poi rafforzate in specifici corsi di formazione per avere operatori in grado di agire nei contesti più difficili. La direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalità e attitudinali per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle scuole militari dell'esercito, diramata annualmente dall'Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare, prevede la valutazione in sede di selezione di alcune specifiche caratteristiche attitudinali. Dette caratteristiche vengono valutate di volta in volta dallo psicologo con una differente complessità a seconda dello specifico profilo professionale dell'ufficiale, del sottufficiale e del graduato, che si differenziano in funzione dei compiti da svolgere, il profilo di impiego ed il profilo di carriera. In generale vengono sondate delle aree attitudinali: area dell'adattabilità al contesto militare, che comprende le seguenti caratteristiche attitudinali: adattabilità, flessibilità nei confronti degli imprevisti, propensione alla disciplina, senso di responsabilità e aspettative professionali. Area relazionale, dimensione interpersonale, che comprende tra le caratteristiche attitudinali cooperatività e abilità comunicativa, assertività. Area emozionale, dimensione intrapersonale, che comprende consapevolezza emotiva e autoefficacia. Area del lavoro, dimensione produttiva gestionale, nell'ambito della quale sono contemplate perseveranza ed impegno verso l'obiettivo e autonomia nello svolgimento dei compiti. In queste aree sono contemplate specifiche capacità, tra cui anche quelle tipiche della resilienza, che gli psicologi, nell'ambito dei colloqui, individuano in coloro che ambiscono a entrare nell'esercito. Fra le altre, infatti, troviamo la capacità di adeguarsi alle diverse situazioni di fatica e di stress, adattarsi a diverse condizioni ambientali, culturali, situazionali, fronteggiare ritmi continui di lavoro, affrontare compiti imprevisti e gestire la lontananza per lunghi periodi dai propri affetti. La selezione nell'esercito, dunque, nella costante attenzione a reclutare persone adatte, già da tempo punta a scegliere individui in possesso delle capacità di resilienza presenti in potenza. Inoltre, con l'introduzione a partire dal 2019 del concetto di plasticità cerebrale e degli esercizi di Brain HQ in ambito selettivo, l'esercito è sempre più modernamente proiettato a orientare e potenziare, tramite appositi corsi, le capacità dei propri uomini già individuate durante la selezione.